sotto finti cieli e dirigibili, col tuo cappello di pensieri e solitudini, a immaginare gli ascensori sotto gli alberi, ovunque sei. Siamo due morti.